Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Stasera e domani sera vi racconteremo del progetto Flotta Verde, un programma della Marina Militare che da un lato è finalizzato ad ammodernare la flotta e dall'altro a sperimentare tecnologie che possano poi essere trasferite al settore civile. Ne parliamo con Pasquale Tripodi, che è capitano di fregata della Marina Militare e responsabile appunto del progetto Flotta Verde. Buonasera Tripodi. Buonasera dottor Melis, buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta, allora, brevemente, in che cosa consiste questo progetto Flotta Verde? Quali sono gli obiettivi principali al di là di quello che ho anticipato? Sì, allora, il progetto Flotta Verde è un'iniziativa della Marina Militare per promuovere i carburanti alternativi a quelli di derivazione petrolifera nel settore del trasporto navale. Nasce da un preciso desiderio del nostro capo di Stato Maggiore di dotarsi appunto di una flotta verde che sia un esempio di sostenibilità e anche una vetrina nel mondo di tecnologie nazionali innovative nel campo della propulsione green. Intanto è opportuno sottolineare che una forza armata è bene che non dipenda esclusivamente da un'unica fonte di approvvigionamento, come in questo caso è oggi, cioè il petrolio, ma diversifichi verso più possibilità di trovare alimentazione energetica per svolgere i propri compiti. Gli obiettivi, molto rapidamente, sono quello di ridurre entro il 2030 fino al 50% la dipendenza dal petrolio della nostra forza armata. E, diciamo, i due pilastri della nostra iniziativa Flotta Verde sono sostanzialmente i biocombustibili e il gas naturale liquefatto, con un vincolo, quello di poterli portare a bordo delle nostre navi riducendo al massimo, anzi azzerando se possibile, l'impatto sia sulla logistica esistente sia sui dispositivi e quindi sulle motorizzazioni delle nostre navi, anche in un'ottica di dualità del valore di questi progetti che possono essere applicati in un futuro anche al trasporto marittimo civile senza costi eccessivi. Ecco, da questo punto di vista, tra biocombustibili e GNL, quali sono gli aspetti di sfida, le difficoltà? Allora sì, i biocombustibili li abbiamo già sperimentati con successo e sono pienamente impiegabili a bordo senza alcuna modifica e senza trasformazione della logistica esistente. Si tratta in particolare di oli vegetali, certo, idrotrattati prodotti in Italia presso la bioraffineria Eni di Porto Marghera da sostanze di scarto, quindi non in competizione col mercato alimentare. Certo. La grossa sfida nel futuro è trovare abbastanza feedstock di nuova generazione, quindi non in competizione col mercato alimentare. Il gas naturale liquefatto invece è un carburante molto interessante per le prestazioni economiche e ambientali, che richiede però un approccio, diciamo, multidisciplinare per poter essere impiegato come nuovo carburante, insomma, per il trasporto navale. E soprattutto richiede infrastrutture, no? Che al momento non ci sono. Il gas naturale liquefatto che viene distribuito in Italia, per esempio a scopo di riscaldamento, arriva tutto da Marsiglia, arriva dalla Spagna, dove ci sono dei gasificatori attrezzati per il cosiddetto spillamento. Sì, vediamo nel gas naturale liquefatto la possibilità per la Marina di fare da apripista con le proprie basi navali per realizzare i primi punti di rifornimento di gas naturale liquefatto che costituiscano un po' il polmone sia per l'utilizzo di questo nuovo carburante sia in campo navale che in campo degli automotive, quindi degli autotrasporti. Dal punto di vista però ambientale, tra biocombustibile e gas naturale liquefatto, quali sono vantaggi e svantaggi? Allora, il biocombustibile tendenzialmente, avendo un'elevata frazione bioderivata, consente di raggiungere più facilmente quegli obiettivi di riduzione delle emissioni climalteranti, quindi in particolare di CO2, rispetto ai livelli metano, passati. Per esempio, certo. Il metano ovviamente è un combustibile fossile che, quindi, ha prestazioni ambientali vantaggiose rispetto al petrolio, però comunque la riduzione delle emissioni è dell'ordine del 15%, 20%. Su invece il carico inquinante forse potremmo dire il contrario, se parliamo degli inquinanti e non dei climalteranti. Sicuramente il metano in questo caso presenta minori emissioni inquinanti per il fatto stesso che non contiene particolato e quindi anche consente di abbattere notevolmente, non contiene zolfo e quindi anche le emissioni di NOx sono limitate, quasi azzerate. Ecco. Tanto è vero che per esempio nel nord Europa si sta molto sperimentando, no? Nel mare del nord questo carburante al momento. Sì, grazie anche ai forti incentivi, al forte sostegno, diciamo, che proviene da quei governi che sono molto sensibili, insomma, alla protezione di aree particolarmente fragili dal punto di vista ambientale come il Mare del Nord e i mari artici. Quante unità navali potenzialmente saranno ricomprese in questo progetto? Ecco, potenzialmente tutte, nel senso che sulle unità navali in linea abbiamo un programma di efficientamento energetico e di possibilità di impiego dei biocombustibili, poi c'è il programma navale di rinnovamento che prevederà nei prossimi anni l'acquisizione e la costruzione di nuove unità 8+4, quindi una dozzina che andranno a sostituire per via del maggiore contenuto tecnologico molte più unità che invece hanno raggiunto già il loro fine, insomma, di vita operativa. Va bene, grazie Pasquale Tripodi. Allora ci risentiamo domani per parlare di questo progetto di conversione di navi in dual fuel. Buona serata. Grazie e buonasera.